traguardo, mi sentivo quasi sicuro, non abbassavo lo sguardo, mi sembrava di non aver nessun rimorso, di aver scelto il giusto percorso, mi sembrava che abbiamo aspettato le mie catene e di aver svolto il mio compito per bene. Pensavo fosse finita questa salita così dura, di aver sconfitto ogni mia paura. Pensavo anche di aver dato un ordine a tutto e a non aver timore anche di ciò che è brutto. E ora che avrei bisogno di una certezza su cui contare, mi sento nuovamente precipitare. E mi accorgo che mi manca sempre un pezzo per realizzare i miei sogni. Manca sempre un pezzo, ce l'avevo quasi fatta, ma manca un pezzo. Quasi felice, ma mi manca un pezzo. So fare tutto, ma manca un pezzo. Potrei fare meglio perché manca un pezzo. Avrei del talento, ma manca un pezzo. Non arriverò mai a niente perché manca un pezzo. A volte il coraggio penso che manca, a volte la fiducia penso che manca, a volte l'orgoglio penso che manca, a volte la motivazione penso che manca. Improvvisamente accorgersi che è troppo tardi, ora sì che fanno male tutti gli sguardi. Non serve capire dove ho sbagliato, dove sono caduto, non importa sapere dove è finito il pezzo perduto. Gli altri sono arrivati, io mi sono fermato. Chi credeva in me rimarrà demoralizzato, immobilizzato, due passi dall'arrivo, perché improvvisamente sento di non avere un obiettivo. E dopo tutti mi chiederanno una motivazione per questa ennesima sconfitta, per questa delusione. E la prossima volta non conteranno più su di me. Ma tutto insolvente, una certezza più non c'è. E mi accorgo che manca sempre un pezzo. Ho lottato fino alla fine, ma mancava un pezzo. Non ci sono scuse, anche se mancava un pezzo. L'importante era vincere, anche senza un pezzo. Una pacca sulle spalle, un po' di fede, perché mancava un pezzo. Ci ho provato, ma tanto mancava un pezzo. Non funziono bene perché mi manca un pezzo. Sono diverso perché mi manca un pezzo. A volte l'allegria, il pezzo che manca, a volte l'affetto, il pezzo che manca, a volte la gioia, il pezzo